con Carla Romana Antolini per parlare di Officina Estate a Roma, a Spinaceto, Anfiteatro di Largo Canella, dal 5 al 14 settembre 2019. Carla, ben trovata. Buongiorno a voi. Allora, tu sei una delle curatrici, si tratta di una rassegna, ce ne parli un po'? Sì, assolutamente sì, è una delle rassegne triennali dell'Estate Romana, quindi siamo al terzo anno a Spinaceto e facciamo eventi a Largo Canella, che è appunto questo piccolo anfiteatro all'aperto, e degli eventi anche nella Biblioteca Pierpaolo Pasolini di Spinaceto. Iniziamo infatti proprio alla Biblioteca Pierpaolo Pasolini con l'idea di coinvolgere il territorio, e abbiamo fatto due laboratori gratuiti, uno di teatro e uno di fotografia, che sono il laboratorio fatto dal progetto Black Reality, che si chiama un po' provocatoriamente Odio gli indifferenti, proprio perché insomma la voglia insomma di fare una cosa che coinvolga il territorio e scuota un pochino il fatto, una periferia che alla fine subisce molta indifferenza. E un laboratorio di fotografia invece che si farà più avanti il 12 e il 13 settembre, sempre alla biblioteca, con sede alla biblioteca, che si chiama Lo Spazio Silenzioso ed è curato da Fabio Moscatelli. Diciamo, è un po' difficile riassumere tutti quanti gli eventi perché ci sono concerti, spettacoli teatrali, è tutto pensato un po' per una società molto omnicomprensiva, aperta a tutti nel dialogo, quindi come la mission proprio dell'associazione Officina delle Culture è aperta a diverse culture, per cui sabato 7 avremo il concerto dei Tantan Morolà, che sono questo gruppo senegalese di percussionisti che sta a Roma da diversi anni, ma in realtà insomma fanno tournée abbastanza dappertutto. E venerdì 13 abbiamo il concerto di un artista pure con cui l'associazione collabora, che si chiama Rashmi Bhatt, che suona le tabla indiano, che suona con un musicista turco. Quindi insomma assolutamente sull'incontro tra le culture, ma anche tanti eventi per i bambini, laboratori, passeggiate nei parchi di Spinaceto con delle guide ambientali, insomma, che ci spiegano un pochino quali sono tutte le piante che ci sono, ma con anche un laboratorio creativo e divertente. Faranno sempre per i bambini il laboratorio di percussioni e movimento a Largo Canella, l'associazione Destination West Africa, che è l'associazione che organizza sempre in questo municipio da tanti anni alla cooperativa Agricoltura Nuova, l'Afrofest, e quindi farà il laboratorio Bifalo Kouyaté, che è questo percussionista del Mali. Dopodiché abbiamo di teatro lo spettacolo Denuncio Tutti, Lea Garofalo, del collettivo Teatro Prisma di Bari, che ripercorre la storia di Lea Garofalo, che è stata una collaboratrice di giustizia, nel senso che comunque una che faceva parte di una famiglia dell''ndrangheta e decide un giorno di staccarsi proprio per offrire un futuro migliore alla figlia e quindi diventa una collaboratrice di giustizia, e però appunto viene inseguita da quello che è il suo ex compagno, il padre della figlia, e viene uccisa. E quindi diciamo ripercorre lo spettacolo in maniera molto coinvolgente tutta l'ascesa dell''ndrangheta in Italia e poi la vicenda insomma chiaramente inaccettabile della storia di Lea Garofalo, che fondamentalmente è stata poi abbandonata dalle istituzioni. Anche diciamo che possiamo dire tanto divertimento con i concerti per esempio di Sara Franceschini, che è il 13 settembre, che è una delle voci del progetto Viaggio in Italia di Tosca, dove vengono riproposte appunto le musiche e canzoni di dialetti di tutta Italia. È una ragazza appunto del territorio con una voce bellissima e quindi si offrirà questa serata il 13. Saverio Martucci chiude il 14 canzone cantautore a Largo Cannella, che ha comunque già partecipato anche ad altri eventi in zona. E ritornando al teatro, Gianluca Riggi, appunto, che farà il collaboratorio con Valerio Gatto Bonanni, Claudio Senti, farà uno spettacolo di commedia dell'arte molto divertente sabato 14, che si chiama Dialogo tra Prometeo e Sisifo, che appunto dalla commedia dell'arte prevede anche una cucinata di carbonara in scena, insomma, ed è molto molto divertimento. Mm-hmm. Per i bambini c'è anche lo spettacolo di Abraxa Teatro venerdì 6, per ridere un po', insomma, diciamo che abbiamo cercato di andare incontro ai gusti un pochino di tutti, riflettendo proprio su una società aperta e su quelle che sono delle caratteristiche della periferia. Infatti siamo molto felici di ospitare anche questo incontro venerdì 13, che si intitola Pugilato e periferie, proprio perché comunque siamo vicino anche al centro sociale Auro e Marco, dove c'è una palestra popolare, insomma, molto attiva e importante per il territorio di Spinaceto. E Dario Ricci, che è un giornalista, guarda caso, sempre di origini del territorio, che però appunto adesso sta a Milano a Radio 24, e ha scritto un libro di un maestro di pugilato che si chiama Mario Bambini di Milano, che lavora in una periferia di Milano, e lo appunto gli abbiamo chiesto di venire a Roma, a Spinaceto, per insomma, il confronto tra due periferie. E sarà ospite Mirko Geografo, che è questo pugile della Montagnola, che insomma sta molto in auge in questo momento, ecco, okay. Per gli appassionati. Ho visto che c'è l'evento Facebook, ci dai tutte le coordinate internet per saperne di più? Assolutamente sì, c'è Facebook, c'è su Instagram Officina delle Culture, e c'è il sito web, che è officinedellecultura.wordpress.com. Diciamo difficile non trovarci, perché adesso appunto sul web la comunicazione poi fa parte dell'estate romana, quindi si trova abbastanza facilmente. È tutto diciamo assolutamente d'ingresso libero per la Biblioteca Pierpaolo Pasolini, e per gli eventi a Largo Cannella abbiamo scelto questa formula di offerta libera, proprio per garantire il fatto che appunto chi può fare quello che può, insomma. Allora ricordiamo Officina Estate all'Anfiteatro di Largo Cannella, Spinaceto a Roma, dal 5 al 14 settembre 2019. Un saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici, Carla Romana Antolini. Un abbraccio, in bocca al lupo, e a presto, Carla. Grazie, grazie, grazie. A presto, ti aspettiamo naturalmente. Ok, allora appena pubblico ti giro tutto. Grazie, ciao Fede. Baci. Un bacio.